Volevo vedere questa zagara che gli hanno piazzato sul mento, anche perché così potremo fare causa finalmente a Capri. Bellissimo rivedere tanta gente, tanti amici, sentire questi urli così, è una cosa che personalmente avevo bisogno. Pazzesco, ma come fa un gallo nel recinto delle oche? Tutti convocati di Carlo Genta. Cari amici convocati, buongiorno. Franco Piantanini, autore di questo programma, Gianmarco Ferronati in regia, e voi che interverrete all'800 24 0024, numero verde, motori e canestri, mettiamola così. Questo spicchio di fine estate è azzurro come la maglia azzurra della nazionale di basket, blu Red Bull, perché ieri Vettel ha vinto. Aspetta, poi c'è anche... Sì, ok, ho capito. Poi c'è anche la storia delle sveglie. Abbiamo capito, c'è anche la storia delle sveglie, ma di questo parliamo dopo. Prima motori e canestri, magari poi anche donne, vediamo, donne e motori, gioie e dolori, diceva qualcuno. Beh, dunque, azzurro come la maglia azzurra della nazionale di basket Blue Red Bull, ma anche rosso come il tramonto dei sogni della Ferrari ieri a Monza. Quindi partiamo da qui. Penso che un sogno parassido non volverà mai. E mi pintava las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. È stato un weekend, come dico, quasi perfetto. Il quasi è che il nostro rivale per il campionato ha vinto, no? E ha aumentato il distacco. Però quando uno domina venerdì, domina sabato, domina domenica, dobbiamo fargli i complimenti, accettare che sono stati più bravi di noi e provare la prossima volta. Più che lottare come leoni non si può fare. E oggi, questo weekend, l'abbiamo fatto. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Partita contro l'avversario più forte, di grande maturità, di costanza per 40 minuti, veramente una partita di livello assoluto che va riconosciuta ai miei giocatori, tutti insieme, perché ci voleva essere al top chiaramente per battere la Grecia, l'hanno fatto. Mi aspettavo la voglia di vincere contro questa Grecia, sicuramente siamo... Si vede in campo, siamo uniti, dentro e fuori dal campo, e per me l'importante alla fine è vincere, insomma, e bisogna continuare su questa strada, possiamo ancora crescere. Caro Andrea Datreia, che scrivi un messaggio, ma vi prego, chiamatemi, perché sennò il contraddittorio è monco. 800240024, non salgo su nessun carro dei vincitori del basket, questo sia chiaro. Io sono partito metaforicamente per questa spedizione con grande sfiducia, adesso... insomma, sono meravigliato da una parte, felice dall'altro per aver visto un'Italia dei canestri da sogno. Poi ci sono anche gli specialisti della scaletta, parleremo anche di Nibali, caro ascoltatore, non parlate mai di Nibali. Sì, parleremo anche del rosso di Nibali, ma oggi mi interessa di più il rosso Ferrari e l'azzurro della nazionale italiana. Allora, tra canestri e motore si sta dividendo Flavio Vanetti, inviato storico del Corriere della Sera, che sta guidando da Monza verso Lubiana, vero Flavio? Grazie, ciao. No, ciao. In realtà sto guidando ho guidato da sì? Monza a Capodistria. A Capodistria. E sono praticamente arrivato, perché oggi c'è la partita con la Svezia che bisognerà ovviamente seguire. Sì, Alonso si arrende, quindi da Monza verso Capodistria e poi da Capodistria a Lubiana, perché il tragitto è questo. Esatto. Alonso si arrende. Berinelli no. Vettel a Monza prende fischi molto italiani, peraltro. L'Italbasket batte la Grecia dell'italiano Trinchieri, guarda quanti incroci hai trovato strada facendo. Sì, sono partito appunto dai fischi nei confronti di Vettel, che lui ha digerito in maniera secondo me molto furba e astuta, perché ha ben capito che forse un giorno quei fischi lì diventeranno degli applausi perché insomma è abbastanza chiaro che probabilmente un giorno lo vedremo con la Ferrari, e poi dopo sono qua appunto per invece vedere i complimenti che giustamente sono stati versati su questa squadra, che anch'io condivido la tua stessa idea, aveva alla vigilia incutere solo un certo senso di sfiducia ed è stata brava a ribaltare la situazione. Sì, bravissima a ribaltare la situazione. È chiaro che il bello viene adesso, il bello deve ancora venire, come cantava qualcuno. Però, caro Flavio, per rimanere un attimo sulla Formula 1, la Ferrari, tu dici, Vettel un giorno lo vedremo in Ferrari, sembra l'Inter dei tempi di Ronaldo. Quelli buoni li prendo, poi vediamo se vinco. Qualche volta no e qualche altra pure, almeno all'inizio. Però Vettel 32 vittorie come Alonso, vola verso il quarto titolo, Alonso ne ha due. Io capisco la frustrazione del principe delle Asturie, perché è un falso storico questo. Ma infatti io non sono poi dell'idea che Fernando abbia tutti questi torti. Lui sicuramente nell'ultimo periodo ha sbagliato un po' di uscite, di atteggiamenti, secondo me anche un po' esasperato certe situazioni contro la squadra, che comunque è una squadra totalmente dedicata a lui, e tra l'altro che lui ha voluto anche modellare in un certo modo la sua immagine e somiglianza. Infatti una critica che si può fare semmai alla Ferrari è quella di aver anche magari permesso qualcosa di troppo ad Alonso, però il pilota non si discute, a parte magari questa lacuna che ha ormai abbastanza sodata in qualifica, non è sicuramente il più veloce, sembra anche un po' soffrirla ultimamente sul piano emotivo, però il talento c'è, non si discute, e quindi io alla fine sono per una via di mezzo. La Ferrari magari farà anche bene ad arrabbiarsi con lui, però deve anche un po' meditare sulle macchine che ha messo a disposizione di Fernando in questi anni, che non erano certo pari a quelle che invece hanno vinto. Ecco. Quindi Vettel, che resta comunque un fenomeno, secondo me, ripeto, lo sottolineo, ha avuto anche il vantaggio di guidare un mezzo incredibile. Certo che Alonso giustamente vorrebbe per il compleanno, non c'è niente di male secondo me in questo. Ma senti, sì, magari non detto in quella maniera, anche se forse lì anche si è equivocato. Lui ritengo volesse fare più una battuta, se vogliamo, sarcastica, si è visto un po' il demonio dove non c'era. Però diciamo che forse è stato inopportuno in quel momento, e forse in uno scenario che aveva già comunque fatto montare delle situazioni di tensione, quindi alla fine, ripeto, sono un po' colpevoli tutti, ecco, di questa situazione. Sì, eventualmente poteva mettersi d'accordo con Allegri per una gita in gommone, perché siamo su quel piano lì. Comunque si dice, questo scenario, c'è qualcuno che lo dipinge in questo modo. Alonso è sbroccato quando ha saputo che Raikkonen aveva già firmato con la Ferrari per la prossima stagione, massa indifendibile, la X sul seggiolino rosso riguarda proprio Alonso, mi pare. No, io non credo che sia una X, adesso poi può succedere di tutto e di più, però a me sembra veramente impossibile che lui possa rompere un contratto da una paccata di soldi all'anno, diciamole anche più o meno, si parla di 25 milioni di euro, quindi mi sembra incredibile che un pilota innanzitutto rinuncia a questa quantità di soldi, ma poi che si tiri fuori in un'annata chiave come quella che sta arrivando, quella del passaggio dai motori vuoto ai motori turbo. Un anno fermo vuol dire molto, secondo me, in un cambio tecnologico del genere, e se vogliamo l'ha anche sperimentato Schumacher, che si è fermato addirittura per 3 anni in una situazione tra l'altro di relativa stabilità regolamentare, e poi si è visto che al rientro ha avuto comunque qualche problema di riabituarsi. Allora, certo, o delle due l'una, o Alonso davvero chiude con la Formula 1, smette, lascia tutto a tutti, o secondo me andrà avanti. E poi tra l'altro la sua posizione, ricordiamocelo, è anche legata alla presenza del Banco Santander, che è a sua volta legata ad altri interessi anche di altra natura, non solo sportiva con la Ferrari. La vedo veramente difficile. Sul discorso Raikkonen, qua ormai ognuno la spara ogni giorno, ha firmato, non ha firmato, arriva Hülkenberg, resta Massa, insomma io credo la cosa migliore sia aspettare appunto la metà di questa settimana, quando sembra questa benedetta decisione sulla squadra del 2014 verrà presa. Flavio, io ti chiedo un attimo di pazienza, informazioni sul traffico, e poi vorrei chiudere con te sul basket e sulla nazionale di basket, e poi ti dico che cosa mi piace da impazzire in questa squadra. Tutti convocati. Quindi c'è da lasciarlo passare, veramente siete dei scemi, eh? Mamma mia, ragazzi. Si è fatto anche un caso su questi, siete dei scemi, dice Fernando Alonso, ma santi Dio, si può fare, no? altrimenti al signore delle mille sveglie di cui poi parliamo, chissà che cosa dovrebbero, chissà come lo dovrebbero multare. Vabbè, comunque, Flavio Vanetti, a occhio e croce, questi quanti europei hai visto di pallacanestro? Il primo è stato nel 1985. Qualcuno, dunque. Qualcuno, sì. Ecco, sì, allora sì. Ti dico, sai cosa mi piace da morire in questa squadra italiana? Che il fatto che quando abbiamo il pallone in mano e dobbiamo attaccare il canestro, non ci facciamo segno della croce. Vedo, come dice mio amico Dan Peterson, anche tuo, il tiro è un gesto agonistico. Giochiamo in attacco con una cattiveria che io non ricordo. Sì, sicuramente qualcosa è successo in questi giorni della squadra, perché non dimentichiamoci che si era presentata dopo un precampionato diciamo più favorevole di dubbi, di perplessità che di sicurezza. In particolare proprio il tiro non aveva funzionato, era proprio una costante particolarmente negativa. Adesso invece c'è una situazione in cui tutto sta funzionando a meraviglia, e credo che la partita con la Russia ci abbia proprio portato a capire che bisogna osare, che bisogna crederci, bisogna essere compatti. C'è stato anche, secondo me, un salto di qualità dal punto di vista difensivo, comunque, perché io ripeto, la partita con la Finlandia l'ho seguita solo da Monza con il play by play in internet, però quando tu vedi che costringi una squadra come la Finlandia, che secondo me è a sua volta molto progredita, costringe a fare 18 punti in 20 minuti, beh, ecco, sicuramente lì qualcosa ha funzionato anche in retrovia. Però sono d'accordo con te, è vero, quello che sta succedendo in attacco è proprio quello che hai definito tu. Sì, no, poi dicono che abbiamo i giovani, non abbiamo i giovani, che sono soffocati dagli stranieri, dalle PlayStation, eccetera. Guardando Gentile e Melli non si direbbe, perché le partite sì, che stanno facendo anche questi ragazzi. La vera volta in A che hanno un'occasione, B che comunque insomma effettivamente fanno anche la loro parte, nel senso che capiscono che non è più il tempo di come dire, di accontentarsi o comunque di avere delle comparsate, ma anche il momento qui devi metterci qualcosa in termini di personalità, di carattere, per lasciare un segno, un'impronta nella squadra. Ecco, diciamo che, come è già successo altre volte nel passato, la situazione d'emergenza, il momento del bisogno, ha creato delle sinergie favorevoli e ha anche permesso forse di schiudere dei fiori. Ecco. Grazie Flavio. Grazie a voi. Buona strada. Buona strada. Grazie, siamo quasi arrivati. Buona strada e buon lavoro, Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera. Allora, sì, lo so che ho sbagliato il pronostico con Hamilton. Voi sapete perfettamente che non indovino uno, io continuo a farli alla faccia vostra. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire. Ho detto la sveglia dopo. Ho detto già settimana scorsa mi avete fatto diventare matto con quella canzone. Adesso non vorrei andare avanti tutta la settimana con le sveglie che non suonano. Poi ne scegliamo anche una, per Monsieur Mario Balotelli. Sapete che devo parlarne per contratto, quindi inutile che ve lo dica. Storie di attaccanti. Non so chi si ricorda di voi un fumetto degli anni 80. Vediamo se qualche ascoltatore ci arriva. Un fumetto degli anni 80 dal titolo Il centravanti. 800 24 00 24, fumetto non proprio per, cioè solo per i maggiorenni, diciamo così, vi aiuto. Romeo, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno. Senta, ma io dico, dopo le esperienze di Italia 90 e Torino 2006, c'è proprio bisogno di candidare l'Italia alle Olimpiadi? Secondo me questi qui o sono di pirla oppure hanno bisogno di soldi da dare ai soliti amici, perché non è possibile. Sì. Io l'Italia non candiderei questo paese, diciamo così, al momento nella situazione attuale è dato il progresso. Le ultime, non solo Italia 90, mi riallaccio all'ultima grande manifestazione che abbiamo organizzato, cioè i mondiali di nuoto, e la situazione a Roma è lì da vedere, e quello che ne è uscito anche in termini di lavoro per i giudici lo conosciamo tutti. Dunque eviterei, poi ci chiudono la porta in faccia, strilliamo, eccetera. Ci abbiamo provato diverse volte, anche peraltro con gli europei di pallacanestro, non ce li danno e fanno, secondo me, bene. Massimo Bari, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo. Ciao. Sempre convocato. Bravissimo. L'unica cosa che volevo intervenire sul Gran Premio di ieri, secondo me per la scuderia Ferrari il pilota non si discute, per me il pilota non si discute, però la scuderia Ferrari meriterebbe le cannonate, altro che sveglie, perché farsi dare, cioè ormai siamo a 53 punti, a 7 gradi dalla fine, io credo che neanche un miracolo, bisogna pregare solamente che Vettel non partecipi più al mondiale. È l'unico mio pensiero. Volevo sapere la tua opinione. Ma il tuo pensiero è un po' cattivo, ma non è lontanissimo dal mio. Io metterei sempre i fiori nei cannoni, quindi lasciamo stare le cannonate. Però è un fatto che Alonso abbia fatto i numeri per tenere la Ferrari in linea di galleggiamento. Io continuo a pensare che sia il più forte pilota del mondo. Ne è convinto anche lui, perché ha l'autostima del campionissimo, e prenderle tutte le volte per tutti questi anni dal biondino tedesco, dal mostruoso biondino tedesco, io capisco che gli girino, quindi mettiamoci anche queste voci. Ma Carlo, allora sì. Di chi è la colpa? Un colpevole bisogna poi trovarlo, la causa di tutto questo. Di chi è? Dimmelo tu, non so. Secondo me è della scuderia, comunque, qualcosa non va, qualcosa non va. Io dico che sono state cambiate molte volte i vertici della Ferrari, i progettisti, e il muretto, insomma, molte componenti della squadra. Una chimica, una quadratura non è mai stata trovata. Alla Red Bull hanno preso un genio che si chiama Newey, e questo ha disegnato una macchina imbattibile. Le macchine imbattibili hanno un loro ciclo vitale, quello di questa macchina è molto lungo, anche perché i competitors, non solo la Ferrari, perché non dimentichiamo la Mercedes, non dimentichiamo la McLaren, questi team storici che buttano un sacco di soldi nelle corse, nella Formula 1, non sono mai riusciti ad arrivare a fare solletico alla Red Bull. O se ci sono arrivati, poi si sono dovuti comunque inchinare alla Red Bull e al mostruoso tedeschino Vettel. Quindi io capisco perfettamente come ad Alonso possano girare. Massimo da Bari era l'ascoltatore che abbiamo sentito. Allora Catania, Santo, buongiorno. Pronto, mi abbassi la radio? Sì, buongiorno. Sembra di essere sulla luna, mi abbassi la radio, grazie. Buongiorno. Volevo fare una domanda su quanto riguarda la nazionale di calcio. Che sabato ho visto la partita contro la Bulgaria. Venerdì, sì. E in dopo partita i calciatori, Prandelli compreso, dicevano, ecco, gli avevano uscito il carattere, è stata una vittoria meritata. Ma io quello che ho visto al secondo tempo, l'Italia non ha spazzato il centrocampo, cioè quelli si hanno preso a pallonate. Ecco, adesso io mi chiedo, il mondiale del Brasile con questa nazionale, ecco, dove possiamo arrivare? La mondiale del Brasile manca un sacco. Nazionale modesta come la Bulgaria, al secondo tempo, lei credo che mi darà ragione, se non era per Buffon. Sì, ma questo questa è cronaca, se non c'era Buffon quel gol finiva dentro, per fortuna abbiamo un grande portiere che mette quasi in soggezione qualunque attaccante, però mi sembra semplicistico il discorso, cioè questa nazionale adesso, siamo i primi di settembre, non convince, ma vince e si qualificherà con largo anticipo per il mondiale brasiliano. È molto difficile dire questa squadra traghettata così com'è in queste condizioni in Brasile non può fare molta strada, insomma è un discorso diverso. A me sembra una squadra molto tosta, interessante, con grandi margini di crescita, di miglioramento, insomma tutte cose che sappiamo. Secondo me Prandelli ha fatto un eccellente lavoro e un anno fa gli europei ne abbiamo avuto la conferma, dunque secondo me qui è il caso di avere un minimo di fiducia, al di là di questa partita con la Bulgaria i primi di settembre. Il risultato da centrare la qualificazione ai mondiali senza ansia, senza angoscia, senza preoccupazioni, questo risultato mi sembra sia stato centrato, poi al resto ci penseremo. Francesco Avellino, buongiorno. Salve, buongiorno, ciao Carlo. Ciao, 800240024, come Francesco, dica. Vabbè, niente, io l'anno scorso chiamai e abbozzai al problema Alonso, nel senso che dopo le sue prestazioni e dopo i mancati punti arrivati per colpa un po' della macchina, accennavo al discorso se magari lui potesse andare via proprio per questo. E in effetti quest'anno sinceramente le sue polemiche le condivido in pieno, anche le virgole, perché basta vedere ieri quando la Red Bull ha anche un semplice problema alla telemetria che costringono ad allentare Vettel, noi non ci avviciniamo. Sì. E non vedo spiragli di luce in questo senso. Sì, o almeno nel momento in cui cambierebbero di nuovo le regole e porterebbero la motoristica ad essere il perno della Formula 1, magari ci avvicineremo. Ma le regole, Francesco, sai, ma però sai che le regole sono già state cambiate, no? L'anno prossimo avremo motori 1.6 turbo, 6 cilindri, insomma delle bestie molto diverse rispetto a quelle attuali, quindi il regolamento già è stato cambiato.

Scusa, non ci ho sentito, avevo perché ho perso l'ultimo fare. No, dicevo che un'altra cosa che trovo parecchio incomprensibile a proposito di impegni azzurri è questa decisione di Prandelli di esternare la sua voglia di addio. Sì, guarda, c'è da dire che è un qualche cosa che lui ha sempre detto alle righe, anche qualche mese fa, ha voglia di tornare ad allenare un club, probabilmente è anche un modo per lanciare un messaggio ai grandi club, no? Per mettersi sul mercato per tempo, insomma, preparare anche il club a una sua candidatura. E sì, cioè, forse in tempestiva, diciamo che non è stato lui direttamente a esternarlo, sono stati i giornali a tirarlo fuori, però la sostanza è questa, insomma, lui ha voglia di club e francamente io credo che a livello di nazionale poi non sia così traumatico sapere che il CT non sarà più il tuo CT nel prossimo biennio, nel senso che a livello di nazionale passano i tecnici ma passano anche i giocatori, si va per generazioni, quindi diciamo che forse dopo 4 anni è quasi normale. Sì, è quasi normale, però sai benissimo, siamo italiani e andare ai mondiali con un CT esautorato, mi vengono i brividi a pensare al recente passato. Alla prima difficoltà, è vero, il problema dell'Italia è chiaramente che la prima difficoltà poi rischia di sfaldarsi tutto l'ambiente e in questo dovranno essere molto bravi i senatori che non a caso Prandelli non molla mai, se li porta costantemente dietro, insomma quei giocatori che sono molto avanti con gli anni azzurri e forse quelli potranno aiutare. Grazie Mirko, buon lavoro. Grazie a te, un abbraccio, ciao. Grazie a Mirko Graziano, ci fermiamo per il traffico e subito dopo sentiremo, a proposito di centravanti, un altro che ne ha combinate tante, cioè Ronaldo, ma quello vero per dirla alla Mourinho, Ronaldo l'ex fenomeno, intervistato da Dario Ricci, dopo il traffico. Tutti convocati. Sì, è bella. Vediamo, sarà un altro bellissimo classico. Vediamo come succede. E questo Inter di Mazzarri, che effetto ti ha fatto in queste prime uscite? Hai visto qualcosa? Ma sicuramente come l'Inter è fuori dall'Europa, si concentrerà di più a giocare il campionato. E credo che farà anche bene. Può essere simile alla tua Inter, quella di Simoni? Ci sono degli elementi in comune fra questi allenatori, secondo te? Vai, speriamo. Io sempre ho un affetto speciale con l'Inter, speriamo che faccia bene. Hai visto Lorente, Tevez e Giovinco? Gli hai detto qualcosa in vista di questa sfida? No, non di questo, ma abbiamo parlato di altro. Come finirà? Come finirà? Vediamo come finirà. Il tuo pronostico? L'Inter vince. Questo era Ronaldo con Dario Ricci e siamo anche qui, siamo in tempo di spot, Ronaldo che torna interista per un giorno, eccetera eccetera, Prandelli che si fa lo spot per la prossima panchina, Raffaele tifoso viola che scrive spero che Prandelli non faccia il caccia e scansi come con la Fiorentina ci fece perdere il perdibile. Ti è piaciuta la storia di Balotelli oggi? Vi è piaciuta, al di là delle solite cose per cui io devo parlarne e lo sapete, secondo me Balotelli era guadagnato consensi e simpatie perché la ministra a parte tutto sta antipatica a molti secondo Francesco. Complimenti per la sua patetica difesa di Balotelli dicendo che ha fatto bene a non andare all'incontro e ha dimostrato quanto è milanista. Allora io ho dimostrato quanto sono milanista perché secondo me Balotelli male non ha fatto, comunque ad un incontro facoltativo non trovo nulla di così perverso se non si presenta questo incontro, al di là di tutta la aura demagogica che c'è intorno a queste cose. A me è sembrato, visto che siamo in epoca di spot e televendite, mi è sembrato un gigantesco spottone. Volevano Balotelli, ho detto sapete che c'è, io sto in camera a dormire e sinceramente Andrea, io non avrei avuto il coraggio di bussare alla porta di Balotelli, mi scrive Andrea da Pinerolo, che peraltro era lì vicino, poteva anche farci un salto. Andrea, poteva fare un salto a bussare. Mario, ci sei? Antonello Terni, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, grazie per la convocazione. Niente, io volevo parlare un po' del Gran Premio di ieri, della Ferrari. Di fatto secondo me la cosa è molto semplice. Hanno progettato la macchina a Colonia, nella galleria del vento di Colonia, non l'hanno sviluppata là e la macchina è regredita. Allora è inutile che si continuino a investire denari su nuovi progettisti, insomma, Edison Fry, Beh, insomma, Cristo in croce. No, bisogna essenzialmente investire i soldi laddove servono, ovvero sia la galleria del vento di Maranello che non funziona, dovrebbero rimetterla in funzione, ma altrimenti lo sviluppo non lo fai. Sì, ho capito, ma non credo sia solo questione di galleria del vento, anche perché la Ferrari, lo sai benissimo, lo sappiamo tutti, quante risorse abbia, non c'è paragone rispetto ad una Red Bull che la pesta da 4 anni. No, assolutamente, però lo staff tecnico è di primo valore. Quantomeno di secondo, perché di primo valore sono quegli altri con la macchina blu e rossa. Newey è stato battuto dalla Ferrari quando la Ferrari ha investito laddove doveva investire. Con Galleria del Vento Nuovo nel 96 si è aperto un ciclo che è finito nel 2006, quando quella galleria è diventata obsoleta. Beh, insomma, tu ti ricordi però che c'erano anche altri regolamenti che ti consentivano, alla Ferrari, sì, che è una delle poche proprietarie di un circuito su cui poteva sviluppare le macchine. Adesso per regolamento non si può più, e dunque, insomma, sì, è chiaro, si lavora sulle gallerie del vento, però se un progetto è vincente come quello di Newey, allora hai pari a fare delle gallerie del vento, spendendo peraltro una quantità di quattrini che possiamo solo immaginare noi umani. Non penso che sarebbe stato così determinante nella caccia alla Red Bull e a Vettel. Semplicemente i progetti delle Ferrari degli ultimi anni sono stati più deboli rispetto a quello della Red Bull. Stefano, provincia di Genova. Si sarà svegliato, no? Stefano. Sì, buongiorno, pronto? A che ora ti sei svegliato stamattina? Alle 6:30. 6:30? Sì. Come Balotelli, uguale? Più o meno sì. Più o meno. Dimmi. Niente, vorrei dire una cosa sulla passata stagione della Formula 1, che secondo me la Ferrari forse l'anno scorso ha raccolto più punti di quelli che meritava realmente. All'inizio certamente sì, come ho detto prima. Ma certamente sì, secondo me ha avuto un po' di fortuna l'anno scorso, più degli altri team. No, però Stefano, comunque... no, la fortuna di avere la bravura di avere un grande pilota. Perché, sì, Alonso sicuramente, almeno secondo me, insieme a Hamilton sono i piloti più forti. Però diciamo che l'anno scorso sia la Red Bull che la McLaren hanno avuto parecchi guasti meccanici e in circostanze varie hanno avuto comunque delle perdite di punti notevoli, mentre la Ferrari diciamo che ha raccolto tutto quello che poteva. Io mi ricordo i primi Gran Premi partiva addirittura decimo, undicesimo, certo. E finiva magari alla fine sul podio o quarto. Ma quello, Stefano, è quello che ho detto prima, Alonso ha raccolto per merito quasi esclusivo, per grandissimo merito di Alonso, la Ferrari l'anno scorso ha raccolto all'inizio della stagione, quando era nettamente in ritardo rispetto alla Red Bull, ha raccolto un sacco di punti in gare nelle quali non era competitiva. Poi sono anni che la Ferrari non funziona, non va al meglio in prova, sono anni che Alonso parte con un sacco di macchine davanti, quindi questo problema non sono mai stati risolti nelle ultime stagioni. Nelle ultime stagioni c'è stato questo ritornello, cioè la Ferrari partiva di rincorsa più o meno staccata rispetto alla Red Bull, poi avendo molti soldi riusciva a sviluppare delle contromisure, la Red Bull avendo molti meno soldi aveva un calo fisiologico nel corso dell'estate, la Ferrari riusciva più o meno a colmare quel gap. Ecco, questo non è accaduto nella stagione che stiamo vivendo, cioè la Red Bull e Vettel questo momento di flessione in questa stagione non ce l'hanno mai avuto, ed ecco spiegato quella montagna di punti che separano il primo dal secondo in una classifica piloti. Questa è la mia lettura, insomma. Carlo, provincia di Cuneo. Sì, buongiorno, grazie buongiorno. Per la conversazione. Grazie a lei. Buongiorno. Allora, volevo parlare di Balotelli e del mancato incontro con il ministro dell'integrazione. Sì. Se mi permette una battuta, io propongo Balotelli come prossimo segretario della Lega Nord, perché il nome ce l'ha, Mario come Borghezio, Balotelli come miglior padano. Sì. L'accento anche... l'apertura di vedute mi sembra quella del leghista medio, e quindi ho anche il nome, il Trota Salmonera. Il Trota Salmonera, non è male, non è male. Questa non è male, anzi la migliore di oggi. Prossimo segretario della Lega sarebbe veramente, credo, la soluzione di un sacco di problemi. Esatto. Buona giornata. A lei, Carlo. Ubaldo, provincia di Fermo. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Buonanotte. senta, Carlo, io l'ascolto tutti i giorni, volentieri, grandissima trasmissione e grandissimo conduttore. Grazie. Però vorrei fare una precisazione. Ho sentito prima le parole, le avevo già lette sul giornale, di Osvaldo. Io sono un tifosissimo della Roma, ho 62 anni, può capire cosa provo per la Roma. L'ho seguita quando facevano la colletta al Sistina per andare in trasferta, si figuri adesso. Il signor Osvaldo però si dimentica una cosa, che quando era all'Espagnol di Barcellona non se lo filava nessuno, prima di tutto. Grazie alla Roma è tornato in nazionale, si è fatto conoscere dalle platee internazionali, indubbiamente ha dei grossi meriti a livello tecnico e calcistico. A livello comportamentale mi permetta di dire... Però Ubaldo, io non capisco bene una cosa, mi è sfuggito qualche passaggio, ma cosa ha fatto Osvaldo? Qual è il peccato capitale di Osvaldo, che è arrivato alla Roma comunque già reduce da qualche stagione buona? Però non era con la nazionale italiana, si è fatto conoscere in Italia, si è fatto anche apprezzare in Italia, ci mancherebbe, anche da noi tifosi romanisti. Non era con la nazionale italiana. No, non era con, aveva la nazionalità italiana, tanto che di Osvaldo in nazionale anche in termini di Under 21 si parla da un sacco di tempo. Era un giocatore che a me non piaceva molto all'inizio, però ha avuto un miglioramento spaventoso negli anni spagnoli, poi è arrivato alla Roma già giocatore di diverso. Devo rendere merito anche a Walter Sabatini, che ha fatto una cosa molto molto coraggiosa prendendo questo giocatore, che io ti ripeto ammiro tantissimo dal punto di vista tecnico. Ecco, ma Ubaldo, dimmi che cosa ha fatto, qual è il suo peccato capitale, perché ho ancora un minuto. Sì, infatti, mi sbrigo. Il discorso è questo: io sono a 250 km da Roma, ci vado spessissimo a vedere le partite della Roma e lo faccio volentieri, lo faccio con passione, spendendo anche di soldi. Però figuriamoci, quelli che vivono la passione della Roma a Roma, romanisti, io non voglio giustificare i comportamenti di scrivere parolacce sotto casa di Osvaldo, però sicuramente Osvaldo, quando fa questo tipo di interviste o di conferenze stampa, dovrebbe dire qualche volta sì, effettivamente qualcosa ho sbagliato anch'io. Sì, ma io non capisco, Ubaldo, purtroppo il tempo delle convocazioni e delle mene anche oggi è scaduto, ci sentiamo domani alle 2, resta questo mistero, che cosa ha fatto Osvaldo? Perché ancora non l'ho capito. Franco Piantarini, autore di questo programma, Gianmarco Ferronati in regia, domani, ciao.